questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Carmelo Presti Simone da Quarto Flegreo, Napoli, chi ha picchiato oggi Balotelli? Questa è bella, nessuno, guarda. Non so se è bello o brutta. No, nessuno assolutamente, Carlo. C'è stato invece un entusiasmo incredibile, ci sono stati dei cori, lo dicevamo anche nel GR, proprio per Mario Balotelli, che ha entusiasmato. La sua presenza sicuramente ha giovato proprio al clima che c'era lì allo stadio Giarrusso di Quarto Flegreo, e insomma ha deliziato naturalmente con qualche giocata, e dicevo appunto che l'appeal del giocatore è rimasto intatto nonostante il tweet sicuramente infelice che appunto ha scritto ieri sui social network. Non so se infelice il tweet o infelice l'intera vicenda. Io propendo per la seconda ipotesi. Non lo sopporta nessuno, però tutti ne vogliono un pezzetto di questo giocatore, mettendolo a fare il simbolo, il portabandiera, la velina, così il censore delle curve. Io penso debba fare solo il giocatore di calcio, se ci riesce. Poi io spero ci riesca domani sera a Napoli. Mi fa riflettere, lo dico anche a voi, 800240024, la nostra capacità di trasformare una scampagnata di metà ottobre in nazionale in una guerriglia mediatica. Quindi mi dici oggi tutto tranquillo, cameraman a posto, nessuna telecamera in frantumi, l'entusiasmo della gente, non è intervenuta la polizia, tutto tranquillo? Tutto tranquillo, tutto anche ben organizzato. C'erano, ti dico subito, 2000 persone nello stadio, vicino al campo, anche in location di fortuna, perché poi sai che in questi campi che ci sono in periferia, soprattutto in Campania, la gente, pur di seguire con attenzione un evento così interessante, prestigioso, va sui balconi di fortuna, dei palazzi costanti. Ho visto alcuni anche sui tetti, qualche tifoso anche sui tetti, perché naturalmente la security, gli steward erano assolutamente attenti. Quindi c'erano 2000-2500 persone nello stadio, ma sono rimasti fuori almeno 6-7 mila persone che naturalmente volevano essere lì in campo. C'è stato un momento così di tensione, ma leggerissimo, nulla assolutamente da registrare di così importante. Naturalmente, come puoi immaginare, però l'idolo, dicevamo Balotelli, però l'idolo, diciamo così, di tutti i ragazzi che erano lì, perché c'erano moltissimi ragazzi, moltissime scuole calcio, è stato Lorenzo Insigne, che è napoletano, attaccante del Napoli, 22 anni, nato a pochi chilometri da Quarto, a Frattamaggiore, in un paese, in un comune dell'Interland. Ha segnato 2 gol, è stato suo il primo gol, ha lanciato anche la maglietta al pubblico, i cori erano tutti per lui. Bene, grazie Carmelo, alla prossima. Stai attento a Balotelli che te ne dà. 800240024. Tra poco arriva anche Pierluigi Pardo. Voglio farvi sentire però qualche voce di questa mattina, in particolare Abete, presidente della Federcalcio. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Buongiorno a tutti, non vi ho ancora salutati, vi ho già invitati invece. 800240024, Abete. I simboli veri della lotta contro la camorra sono quelli che hanno perduto la vita per causa della camorra, le famiglie che hanno ancora, voglio dire, i drammi vissuti. Noi siamo qui per una presenza che vuole essere una testimonianza di attenzione, una riconoscenza e un incoraggiamento, ma non per questo diventiamo noi i simboli dell'anticamorra, perché i simboli anticamorra sono quelli che vivono tutti quanti i giorni in maniera positiva la dimensione del contrasto contro ogni forma malavitosa. Esatto, è proprio così. Avete, se c'è una volta in cui ha ragione, è questa. Avete sentito le ultime parole? Sono il senso di tutto. C'è Avete che passa da questa curva viscida che si è creata negli ultimi giorni al problema delle curve. Si può fare sempre molto di più di quello che si fa. C'è ovviamente una frontiera difficile, perché ci sono alcune persone che utilizzano lo stadio come simbolo di potere, non per tifare per la propria squadra, ma per manifestare un potere e anche fare, voglio dire, delle operazioni improprie a livello proprio di gruppi che certe volte sono di delinquenti che dicono di essere tifosi ma non sono dei tifosi, perché i veri tifosi non creano mai un danno alla loro squadra e al calcio che amano. Quindi si può fare ancora molto di più. Naturalmente la discriminazione territoriale è discriminazione a tutti quanti gli effetti, non esiste discriminazione all'interno della discriminazione, quindi la discriminazione territoriale rimarrà all'interno delle norme della federazione, perché una cosa è la goliardia, lo sfottò a cui tutti siamo affezionati, un'altra cosa è l'offesa alla dignità della persona umana che non è accettabile. Va bene, questo era il secondo Avete. Io sto leggendo anche i vostri messaggi, molto interessanti. 349-238-6666. Secondo Max da Udine, io non lo convocherei più in nazionale, nemmeno fosse il nuovo Maradona, per le Platini messi assieme. Vabbè. Stefano da Forlì, che ne dica la Gazza, non credi che un ragazzo di 23 anni possa avere il diritto di non voler essere il Saviano del calcio? Io credo di sì. A proposito di questo argomento, io prima ho detto l'intera vicenda mi è sembrata un po' triste, un po' infelice, mal gestita, non solo il tweet di Balotelli ma anche quel titolo sulla icona del nostro giornalismo sportivo, cioè sulla Gazzetta dello Sport, che mi è sembrato un po' forzato. Ieri è intervenuto da questi microfoni Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Sentiamo cosa ha detto. Non aveva capito il titolo, probabilmente, succede quello. Balotelli è un grandissimo giocatore quando pensa soltanto a giocare a calcio. Poi credo che con quel tweet non si sia spiegato bene, non abbia capito esattamente a che cosa ci riferivamo noi, insomma, perché in fin dei conti lui è un simbolo di tante cose, però se ieri è stato male non è colpa nostra, insomma. Se l'altro ieri non ha giocato e aveva la febbre, non è colpa nostra. Quelli sono dati di cronaca. Prima del traffico, e poi arriva anche Pardo, Fabio da Brescia. Pronto? Ciao. Ciao Genta. Ciao, dimmi. Grazie per avermi convocato. Ascolta, volevo parlare riguardo a Balotelli, ha perfettamente ragione, perché lui deve essere l'icona della Camorra. Cioè, prima di tutto è un bresciano, non vive neanche quei terreni, quella terra lì. Sì, e poi non ho capito, lui deve fare il calciatore, cioè deve tirarsi addosso anche questa. No, ma infatti no, cioè, secondo me Zappelloni giustamente dice non quel titolo non è stato capito dal diretto interessato, ma sinceramente non, se è così non l'ho capito benissimo nemmeno io. In ogni caso la risposta di Abete, quella che ha dato prima Abete, è la sintesi di tutto. Quasi quasi non vale la pena nemmeno aggiungere altro. Grazie Fabio, strada e poi torniamo. Tutti convocati. Ecco che è arrivato il mio compagno di banco Pierluigi Pardo. Come va? E non sono solo, eh? No, ti sei portato un grande ospite, Ciro Ferrara, ciao, grazie. Ciao a tutti voi. Ciao Ciro. Ciao Pierluigi. Pierluigi, stai facendo rifinitura per Tiki Taka? Stiamo lavorando per, spero, una grande puntata di Tiki Taka, bisogna essere ottimisti, quindi... bisogna usare gli aggettivi giusti. No, stasera facciamo una roba diversa, forse l'avete anche già letto da qualche parte, cioè ci colleghiamo con Scampia, cerchiamo di raccontare la giornata degli azzurri e cerchiamo di raccontare il calcio come metodo e come speranza per uscire dai casini della vita in tante parti del mondo. Abbiamo delle interviste esclusive fantastiche, ringrazio Tevez, lo ringrazio personalmente oltre alla Juve, perché è la prima volta in Italia, mi pare, che in televisione parla di una cosa del genere, parla del suo primo pallone di stracci e di tutto il resto. Cassano è un classico della tradizione, ci ricorda come ha cominciato lui a Bari Vecchia. Poi un'intervista ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, perché insomma il Napoli ovviamente si candida ad essere anche socialmente qualcosa di importante. Poi Thuram sul razzismo, tanti collegamenti, insomma. E tra l'altro faremo vedere anche Parco Verde, che Ciro Ferrara conoscerà molto bene, perché c'è un campo della Fondazione Cannavaro Ferrara che dà speranza a tanti ragazzi in una situazione veramente molto complicata. Parliamo ovviamente di Scampia e dintorni. E Ciro Ferrara come ha cominciato? Ah, anche io devo dire, ho incominciato a giocare con quelli un po' più grandi di me, nel senso che giocavo con mio fratello che è più grande e quindi con la sua compagnia, ma nel cortile di casa, rompendo vetri, rompendo le scatole ai vicini, sì. Rompendo specchietti retro, specchietti per delle macchine, insomma giocavo tra

un qualche cosa che poi ha fatto degenerare la situazione. D'altronde la situazione è stata difficile anche con chi, per chi mi ha sostituito. Sì, si è parlato di un Ferrara inesperto, e questo era sotto gli occhi di tutti, però qualcheduno invece dovrebbe spiegarmi come mai allenatori molto più esperti del sottoscritto, vedi Del Neri, vedi Zaccheroni, comunque hanno avuto dei risultati addirittura peggiori. Quindi vuol dire che c'erano delle difficoltà. Bravo, bravo, grazie Ciro, grazie. Alla un saluto a tutti voi. Ciao, bella Ciro. Ciro. Ciao Pierluigi. Ci becchiamo presto, quando vuoi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Ciro Ferrara, Pierluigi Pardo, tu stai lì, c'è la borsa. Tutti convocati. Certe volte riuscite ad essere veramente noiosi, peggio delle vecchie zie, come questo amico che, come al solito, mi scrive: anche ieri il tuo amico evasore è arrivato fuori dal podio, ritiratevi sia tu che lui, così fate meno ridere. Poi parliamo del mio amico evasore Valentino Rossi, parliamo del Motomondiale, della Formula 1, di altre meravigliose notizie che ci riempiono di allegria, come quella di questa mattina, squalifica a vita richiesta per Di Luca, ciclista abruzzese trovato positivo per l'ennesima volta in un test all'ultimo giro d'Italia. Vabbè, un sacco di notizie, ma abbiamo tutti i giorni tutto il tempo per parlarne. Pierluigi Pardo? Eccolo. Eccolo. Senti, dopo questa confermo totalmente inutile amichevole di domani sera, inutile anche perché Prandelli cambia interamente la formazione, se ti serve per costruire qualcosa allora cerchi di insistere, soprattutto se hai poco tempo a disposizione come lui, su una squadra per costruire qualcosa di interessante. Sì, penso che sia veramente l'unico possibile motivo di interesse. Sappiamo che insomma le nazionali si lamentano sempre, non soltanto in Italia, perché c'è poco spazio, e quindi questa è un'occasione. Diciamo che essersi qualificati con un turno d'anticipo, nel senso due partite d'anticipo, e quindi uno slot UEFA libero a disposizione per poter fare esperimenti è qualcosa di importante per Prandelli. Però ecco, più di questo non mi sento onestamente di poter dire. La partita di domani è una partita che dal punto di vista giornalistico non significa nulla. Ci sarà l'abbraccio con il San Paolo, che ovviamente è un aspetto importante, c'è la giornata di oggi che è simbolicamente molto molto importante, e ci fermiamo qui. Certamente. Antonio da Torino, Laura da Roma, Paolo da Verona, però voglio parlare con te più tardi anche di quello che ci aspetta dopo questa serie di curve pericolose che abbiamo attraversato in questi 10 giorni. Abbiamo due grandi partite che sono attualmente ancora un miraggio, impantanati come siamo in queste vicende. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io le chiedo scusa, ma mi sono perso per strada il nome di quel giornalista che difendeva Balotelli. Allora, io vorrei solo dire una cosa. Tanto per cominciare, un personaggio pubblico. Giustamente si è offerto come testimone, e lo sottolineo, giustamente, contro il razzismo. È stato adottato da una famiglia italiana. E se un povero Cristo di un prete gli ha offerto una possibilità in più per diventare una persona umana, a un certo punto lui rifiutandolo ha dimostrato di essere, come moltissimi calciatori, un bambino viziato. Punto e a capo. Poi volevo dire un'altra cosa. Io non sono un tifoso milanista, sono un granata. Però i milanisti, un certo Marco Van Basten, se lo sognano ancora di notte. Io la ringrazio e mi scusi se l'ho disturbata. Non mi ha disturbato affatto. Non ho capito chi era il giornalista, io. No, ma sarò stato io, ma non è un problema. Semplicemente non ha disturbato affatto. Anche qui intervento un po' banale e demagogico, a parer mio, però vale tutto, no? Laura? No, no. Laura, ma sì. Laura? Sì, buongiorno Carlo. Io volevo dire che mi sembra una grossa idiozia questa di far diventare Balotelli il simbolo dell'anticamorra. Cioè, non si è capito, diciamo, il personaggio, e tra l'altro secondo me gli sta facendo un pessimo servizio, nel senso che è un bravo atleta, ogni tanto fa gossip, ogni tanto lascia la macchina al suo Porsche. Sì. Ok, ma lasciamogli fare il suo mestiere. Non ha senso chiedergli di diventare il simbolo dell'anticamorra, insomma, cioè, è una cosa che non purtroppo c'è una mancanza generalizzata di leadership che... Sì. Che prendere, diciamo, dei personaggi che sono fuori dal loro contesto. Laura, Laura, Laura, ti ringrazio, anche io la penso così, però non voglio più intervenire, lascio a Pierluigi. No, io ribadisco, cioè, sono d'accordo e credo che sia una possibilità quella di lasciare ai calciatori un ruolo da calciatori e dargli invece un ruolo da filosofi, politici, sociologi, leader spirituali è assolutamente sbagliato, soprattutto se questo ruolo non è richiesto, no? Cioè se l'interessato non è impegnato in prima linea per conquistarsi. No. Detto questo, ribadisco che quel tweet è un errore che ti viene dato evidentemente per la tua forza, per la tua popolarità, perché sei un personaggio evidentemente anche molto amato, ti viene data una funzione, ti viene dato un ruolo testimonial di una campagna sulla quale penso che siamo tutti completamente d'accordo. Prendere distanze secondo me è sbagliato, tutto qui, quindi assolutamente d'accordo sul fatto che non si debba fare di Balotelli un leader politico, un leader filosofico, religioso, spirituale, ma che poi una volta che ti danno questa etichetta e ti coinvolgono in questa iniziativa tu prendi distanze, secondo me è un errore. Sì, ma rimango di queste idee. Poi detto questo, è concordato questo ruolo oppure no? Perché se non è concordato, no, per Luigi. No, ma questo è un giornale che l'ha scritto, no? Sì. Cioè, è chiaro che è tutta la nazionale oggi che è testimonia contro la camorra, esatto, la quale va a allenarsi su quel campo. Balotelli, in quanto personaggio simbolo di questa squadra dal punto di vista mediatico, probabilmente la Gazzetta ha voluto diciamo insignirlo di questo ruolo. Ed è una cosa bella, secondo me è una cosa bella che lui probabilmente non ha capito fino in fondo e di getto ha reagito in quel modo lì. Però insomma ribadisco, io sono d'accordo con l'ascoltatrice, sono d'accordo, non bisogna, i calciatori devono giocare a pallone, però è anche vero che spesso sento dire che ci lamentiamo perché i calciatori sembrano distanti dalla realtà, perché i calciatori vivono in una gabbia dorata, perché non si rendono conto dei problemi della gente. Allora mettiamoci d'accordo, insomma. Paolo Verona, buongiorno. Buonasera, dottor Genta, Paolo da Verona. Io ho 50 anni e volevo solo fare una premessa. Sono un tifoso dell'Hellas Verona, nonché abbonato della Curva Sud del Verona, e volevo solo fare come esempio, che si può fare anche sarcasmo nel modo che voi conoscete, della prima partita di Verona-Milan, ma la mia domanda è questa. Noi che abbiamo sottoscritto comunque degli abbonamenti e pertanto sono anche degli accordi contrattuali, per colpa comunque di qualcuno, e questo generalizzo, possiamo rivalerci per varie ed eventuali mancanze in ottemperanze di curve o settori chiusi dove chi non è a colpa deve per forza subire? Attendo risposta, grazie. La domanda però andrebbe girata un avvocato. Ci sono gli estremi per una guaffata. Sì, ma contro chi ti rivali? A chi fai causa? A quelli che fanno bua, a quelli che fanno chiudere la curva, a quelle associazioni non riconosciute giuridicamente che sono, sebbene a scopo di lucro, che sono le curve, la tifoseria organizzata. A proposito, Pier, ieri è intervenuto Montella qui da noi, ha detto una cosa mica male su questo argomento. Lui, napoletano, lui... giramondo del calcio, lui grande, ora grande allenatore, prima grande giocatore. Sentiamo. Sono abituato a sentirlo, dà fastidio, ma non ho avuto, come dire, compensi psicologici nel mio percorso di vita. Danno fastidio, ma però sono gravi come il bu che si fa a volte a livello, insomma, per il colore della pelle, è uguale più o meno la stessa cosa, però io credo, ripeto, che trovo eccezione si debba chiudere uno stadio perché c'è una frangia di persone, non so se tifosi, che magari si divertono in questo modo. Questo era Vincenzino Montella. Ne ho presi tanti di quegli insulti, sono diventato grande lo stesso, eccetera, eccetera. Ieri, fra l'altro, su questo argomento un ascoltatore è intervenuto poco dopo Montella, eravamo in diretta, e ha stigmatizzato il comportamento di Montella, che gli sembrava un po' da 0-0 sul tema della violenza, sul tema che gli avevamo chiesto in occasione di Fiorentina-Juve, comunque di dire delle cose. E, insomma, il tema è sempre quello, no? Il coinvolgimento dei protagonisti, che non è sempre facile, ma il coinvolgimento dei protagonisti in un atteggiamento, in una serie di comportamenti che possano ispirare poi il pubblico a comportarsi bene. Sì. L'idea di passare da un ruolo passivo a un ruolo attivo e rivendicare con la propria personalità la necessità di comportamenti corretti da parte molto difficile. Io sposo questo discorso, Pierre, tu lo sai, però aggiungo anche che sai anche questo, che è molto difficile poi avere a che fare tutti i giorni con quei signori con il giubbotto nero che vengono agli allenamenti perché tanto non hanno niente da fare e ti rompono le palle ogni santo giorno. Tu sai che ti ritrovi sotto casa, tu sai che ti ritrovi davanti alla macchina tutti i giorni, tu sai che vogliono parlare con te, che se non fai il bravo con loro possono esserci dei problemi. Sappiamo anche tutte queste cose. Poi chiediamo ai protagonisti di metterci la faccia, poi quando ci mettono la faccia diciamo fanno sono troppo protagonisti, ma guarda cosa dicono. Insomma, è un ruolo molto delicato da gestire. Sono d'accordo. Strade, poi Andrea da Reggio Emilia. Mario ha sbagliato, Mario chiede scusa. Però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno, eh? Tutti convocati. Insomma, ragazzi, se chiamate tutti sullo stesso argomento ci annoiamo un po', io e Pardo. Vediamo Andrea da Reggio Emilia. Anzi, vediamo, più che vederlo lo sentiamo. Sì, salve, salve, sono Andrea, grazie per avermi dato la possibilità di parlare. Grazie a te. Io chiamavo, adesso probabilmente vi sto annoiando, io non so di cosa avete parlato fino adesso perché sono dovuto scendere dall'auto. Indovina, per lavoro. Indovinello, secondo te di cosa abbiamo parlato? Avrete parlato di Balotelli. Non mi ricordo più, vai. Niente, io volevo parlare anch'io di questo perché magari avete anche già detto la cosa. Io pensavo semplicemente che si sta cercando di dare un ruolo di personaggio pubblico, un ruolo carismatico, un ruolo di una persona che deve fare, tra virgolette, anche l'ambasciatore del calcio italiano nel mondo, un ruolo che una volta ha avuto Del Piero, che ha avuto Roberto Baggio, che ha avuto Paolo Maldini, a una persona che non ha le potenzialità per farlo. Lui sicuramente è un giocatore talentuoso, esploderà, perché io sono anche un tifoso milanista, io non lo vedo neanche, non mi piace neanche come faccia del Milan adesso, io sono abituato a giocare. A me piacciono giocatori come erano Van Basten, come erano Maldini, come è stato Ambrosini, persone anche che sono uomini, che sono adulte e che in un certo senso si comportano anche in maniera differente. Lui secondo me è sicuramente un ragazzo giovane, talentuoso, che si sta cercando di dargli un ruolo che non ha le potenzialità per farlo, ma non l'avrà mai, perché già comunque a 23 anni sei già adulto in realtà. Va bene Andrea, grazie. Grazie. Già detto, io faccio una circumnavigazione di questo intervento. Pier, ti chiedo invece, a proposito di Milan, del resto abbiamo già parlato anche troppo, a proposito di Milan, ieri tre fischi a Caen contro una squadra di Serie B francese e mi sembra che gli umori non siano esattamente brillanti delle macchie. No, perché le amichevoli ovviamente contano zero, però insomma... Però se ne prendi tre contano. Esatto. Io contano zero a patto di non far diventare un problema un incidente di percorso. Quindi è esattamente quello che è successo ieri. A Milan mi sembra che sia una grande difficoltà tecnica. Cosa intendi per difficoltà tecnica? No, ma sai soprattutto cosa? Difficoltà Milan... relativa al tecnico? No, anche. Ti sembra che Allegri sia in difficoltà in questo momento? Sia molto in difficoltà? Sembra che il Milan sia in difficoltà e Allegri chiaramente come allenatore di questa squadra mi sembra parte di questa difficoltà. Cioè, il Milan aveva come obiettivo partire forte, lo sappiamo, c'erano state le false partenze degli anni precedenti, si voleva evitare tutto questo, la preparazione era anticipata perché bisognava giocare il preliminare Champions League, quindi anche dal punto di vista dei carichi di lavoro bisognava fare una preparazione per cominciare bene, magari poi calando dopo, togliendosi qualcosa dopo in termini di energie, ma partendo forte. Mi sembra che sia successo l'esatto contrario dal punto di vista della costruzione della squadra, è un problema enorme dal punto di vista difensivo e adesso ovviamente con Rami si sta cercando di correre i pari e vedo soprattutto un nervosismo abbastanza inquietante, sì, nel senso che poi il discorso vale per Balotelli ma vale anche per Montari, tanto per fare un altro esempio, vale per Mexes ovviamente, insomma, e sono tutti segni di una squadra che è poco lucida, quindi sono sicuro che recupererà delle posizioni, però quest'anno la vista per il Milan è che ci sono tre squadre fin qui perfette che non mollano punti, che sono già più di 10 punti. Ma il Milan è chiaramente fuori dalla lotta scudetto ed è molto lontano anche non solo dal terzo posto ma dalla lotta per un ipotetico terzo posto, e secondo me rimarrà un miraggio. Il nervosismo di cui parlavi tu è anche quello di Allegri, sentiamo ieri. Dispiaciuto perché quando giochi una partita di calcio bisogna giocare sempre per cercare di ottenere il massimo risultato, mi interessava vedere in che condizioni erano quelli che rientravano dagli infortuni, e quelli che avevano giocato di meno, con una squadra imbottita ai ragazzini, e sapevamo che rischiavamo di fare anche una brutta partita. Nel calcio ci vuole, oltre che le qualità tecniche, ci vuole carattere, ci vuole voglia, ci vuole entusiasmo, e credo che quando un giocatore viene chiamato in causa deve fare il massimo, ed è perché è l'unica risposta che può dare l'allenatore. La mia sensazione è che Allegri stia un po' perdendo la maniglia della situazione. Fabio da Verona. Sì, volevo intervenire sia su Balotelli che su Allegri, essendo io un tifoso. Partiamo da Allegri, Fabio, ti prego. Allegri molto probabilmente, secondo me, non è in grado di tenere la concentrazione della squadra, la cattiveria tra virgolette agonistica, la squadra è molto svogliata, la squadra non ha gioco, gli infortuni, il Milan decanta, il Milan Lab, tutte queste cose, tutti gli anni ci sono 7, 8, 10 infortunati, 11 infortunati, gente come De Sciglio e Sharawi, ventenni che per sei mesi sembra che spaccano il mondo, poi spariscono. Spariscono per diverso tempo. C'è anche Pazzini che ha avuto un infortunio grave, è stato operato, però i tempi di recupero mi sembra siano particolarmente lunghi. Beh, non ha torto Pierluigi? Pierluigi Pardo, non ha torto Fabio. È un'altra chiave abbastanza evidente, ma insomma è una crisi tecnica, una crisi fisica, è una crisi di condizione, è una crisi psicologica, è una crisi. E probabilmente la scelta di tenere Allegri, che sappiamo è stata comunque in qualche modo indotta dalla squadra, dai Galliani soprattutto, è stata una scelta che però è rimasta un po' stessa, no? Perché non gli hanno fatto il rinnovo del contratto, è rimasto così in una condizione di purgatorio, un allenatore che si sa già che molto probabilmente l'anno prossimo andrà via, e questo forse non aiuta. Sì, non aiuta di sicuro, l'anno prossimo magari anche prima, perché ripeto, il vento su Milanello mi sembra particolarmente violento, al di là dell'amichevole, delle attenuanti generiche e tutto questo. Pierluigi, ti guardo stasera in televisione come tutti noi. Tiki-taka, 23:50, Italia 1, Tevez, Cassano, Scampia, De Laurentiis, Thuram, stasera proviamo a volare alto, poi magari non ci riusciremo, poi magari parleremo un'ora di Balotelli ugualmente, perché chiaramente un po' ne parleremo, ma insomma cerchiamo di raccontare il calcio che nasce per strada, che poi alla fine è una cosa, sembra bella. Molto bella, molto bella. Domani faccio il critico cinematografico. Bravo. Vengo con l'altro. Ciao, grazie per Luigi Pardo. Dunque, adesso ci fermiamo e poi vi accontento, parleremo. Anzi, ma parlatene voi. Ho ricevuto un miliardo di messaggi, parliamo un po' di basket. Ho ricevuto altri messaggi, vabbè, lasciamo stare la storia dell'evasore fiscale. C'è la questione dei motori con due campioni del mondo in pectore ormai, due ragazzini che hanno chiuso il mondiale. Vettel ormai consacrato supercampionissimo, Marquez che lo sta diventando alla velocità del suono. Se volete parlare di qualcosa siete sempre tutti convocati, io vi aspetto qui, 800 24 00 24. A dopo. Tutti convocati. Questo sms lo prendo come una battuta, recita così: per colpa della sconfitta di quei venduti dell'Armani Jeans non ho vinto 900 euro, si vergognino addirittura. 800 24 00 24, numero verde. Franco, provincia di Brescia, poi Riccardo e Davide. Franco, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, grazie della convocazione. Grazie a lei. Sono molto vicino all'ascoltatore che ha perso 900 euro, perché ha scommesso anche lei? No. Grazie al cielo no, però dopo aver visto il nuovo player giocare, temo che anche quest'anno la scelta del play sia sbagliata. Suo parere, per favore. Ma io riporto il parere del presidente dell'Armani, Livio Proli, che ha detto Gerals non pervenuto, ma al di là di questo, del singolo giocatore o della singola sconfitta, il discorso generale è che l'Armani si trova, secondo me, in una pessima condizione così emotiva, ambientale, cioè è costretta a vincere, e o vince quest'anno o è un fallimento di proporzioni storiche. Non è molto semplice costruire qualcosa in questo tipo di ambiente, in questo tipo di habitat. Non è semplice dover essere costretti a vincere ogni volta, se no sono polemiche. Io credo sarà un campionato molto difficile per Luca Vanchi. Detto questo, l'Armani è la favorita numero 1, 2 e 3 del nostro campionato, non c'è dubbio. E rimane così anche dopo la sconfitta di Brindisi su un campo dove comunque non è facile vincere per nessuno. Riccardo Bolzano. Riccardo? Sì. Dimmi. Eccomi, dimmi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo parlare di Valentino Rossi. Praticamente io ritengo Valentino Rossi un grandissimo da sempre, e sto notando che in questi ultimi Gran Premi sta migliorando, non è al top. Però perlomeno riesce a stare, almeno quest'ultimo è stato lì insieme a Lorenzo, era evidente che insomma le Yamaha qualche problemino ce l'avevano rispetto alle Honda. Erano molto meno competitive rispetto alle Honda, questo, sì, è, certo. questo è evidente. Valentino Rossi, io prendo per buona le dichiarazioni di suo papà a Misano, cioè sta provando a ritrovare le sensazioni del pilota, del top driver quantomeno, dopo aver fatto quelle stagioni in naftalina alla Ducati. Io stravedo per Valentino Rossi, lo sapete bene perché è un'opinione che prendo pubblicamente, però forse è vero che gli anni passano per tutti. Adesso ha un buon ritmo sulla prima metà di gara, però le gare non durano 10 giri ma magari 20, come nel caso di Sepang ieri. Davide, buonasera. Dica. Io volevo sono intervenuto per parlare del Gran Premio di ieri del MotoGP. Sì. A riguardo del fatto delle dichiarazioni del dopo gara nella trasmissione fuori giri, quando Biaggi, sì, e Bernard eccetera, insomma, parlavano dell'incidente di Aragon, quindi sì, dell'aggressività di Marquez, così. Sì. Io non sono molto d'accordo, perché secondo me Lorenzo ieri ha fatto una cosa abbastanza più grave di quella che ha fatto Marquez ad Aragon, perché l'ha fatto apposta ieri. Non credo invece che Marquez l'abbia fatto apposta ad Aragon. E in più volevo dire, a me Lorenzo piace molto, ieri non mi è piaciuto tanto, cioè non mi piace non mi piace come sta gestendo la dualità con Marquez, mi sembra piuttosto nervoso. E volevo dire che Valentino, quando passò dalla Honda alla Yamaha, aveva una moto abbastanza inferiore alla Honda poi passata, sì, a Biaggi, ma sì, lui l'ha fatta diventare superiore. Sì, però insomma ha fatto molto velocemente nel sistemare quella moto, i mezzi erano tanti, forse era anche più semplice. Insomma, questo è un discorso lungo. Quanto al resto, invece secondo me, io non ho visto scorrettezze gravi né ad Aragon né ieri. È stato uno splendido, ruvido duello tra due grandi piloti. Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Ciao Alberto. Buongiorno. Ciao direttore. Buongiorno. Partiamo dalle due ruote e da questa considerazione. Tu il duello tra Marquez e Lorenzo, come dice l'ascoltatore, lo interpreti in maniera un po' perversa oppure no? È un duello duro, perché è la rivalità di uno spagnolo campione che vede il suo prestigio e la sua immagine venire così affiancata, incrinata da quella dell'astro nascente che tutti vogliono campione, che è Marquez. Quindi Lorenzo è un pilota velocissimo, molto consistente, e ha fatto un'entrata in particolare piuttosto dura, però anche Marquez in passato ha fatto... Sicuro. Manovre simili. Alla fine nell'automobilismo hanno regolamentato fin troppo questo tipo di duello. Bravo. Al punto che i piloti, appena si sfiorano, vengono penalizzati in maniera anche esagerata, perché tolgono combattività alle corse. Non penalizziamo le moto anche in questa maniera, lasciamoli liberi di duellare, anche di sportellarsi gomito, spalla a carena tra di loro, ma questo è il senso delle gare, Alberto. Senza arrivare all'estremo incidente. Ricordiamo, certo, poi che quello che ha fatto Marquez a Pedrosa non è stata una cattiveria, ha fatto una staccata violenta, e non è colpa sua se è andato a sfiorare un sensore che gli ingegneri della Honda hanno montato in una posizione assurda sul forcellone della moto. È chiaro, è chiaro. È evidente. Vero, ma infatti è stata una buffonata l'intera situazione, non quel quel punto di penalizzazione post-dattato che gli è stato tolto 20 giorni dopo, quindi è la dorna ad aver fatto una brutta figura. Ma parlando invece delle quattro ruote che nel cuore ti stanno, sul quarto titolo di Vettel, ormai è evidente, no? Io ho usato una parola che conferma ed è antistorico. Lui è fortissimo, è una superstar assoluta, è un grande pilota, però quattro titoli consecutivi mi sembrano qualcosa di eccessivo, di quasi eccessivo. Ma io no, non sono d'accordo, non direi eccessivo, direi che è il sintomo di una situazione dove nell'automobilismo l'auto conta immensamente più del pilota in questo momento, e quindi se un pilota si trova nella squadra giusta, nel trend tecnologico giusto di quel team e riesce a sposarsi perfettamente con la macchina, è destinato a una fulminante sequenza di vittorie. Di Schumacher non abbiamo detto che è stato eccessivo quando ha vinto per 5 anni di seguito con la Ferrari, anche se era un campione fortissimo anche lui. Il problema, il valore del pilota ce lo dà sempre il suo compagno di squadra. Webber l'abbiamo visto ieri, rispetto a Vettel ha vinto 9 gare contro le 35 di Vettel nello stesso periodo. Quando ha avuto la possibilità di vincere la gara facendo la pole position come ieri, l'ha sprecata partendo male al via, non riuscendo a gestire le gomme. La differenza tra un buon pilota come Webber e un campione come Vettel sono i successi a ripetizione. Quando azzeccano la macchina giusta e le altre macchine non sono all'altezza, si innescano queste strisce positive. Certo, in passato dicevamo che i 3 titoli mondiali di Piquet negli anni 80 erano immeritati, perché Piquet non è mai stato così superiore nell'automobilismo degli anni 80 rispetto ai piloti della sua epoca. Dicevamo di tanti piloti, si è detto che sono successi esagerati. Certo, questa è una striscia positiva lunghissima, ma anche Alonso negli anni 2000, metà anni 2000, sembrava avviato a vincere chissà quanti mondiali di seguito. Ma secondo me lo scarto, direttore, sta nel fatto che io continuo a considerare Alonso il più forte pilota del mondo. E se Alonso le prende ormai da 4 stagioni in questo modo? Io direi modo... che Vettel e Alonso sono i 2 più forti piloti del mondo. La riprova la potremmo avere soltanto a macchine invertite o a situazioni differenti. Però va anche detto che Vettel purtroppo per Alonso è più giovane, quindi anche in un'ipotetica sfida a macchine invertite adesso non sarebbe uguale la situazione. Certo, ma tu sai che non è il compleanno di Alonso, quindi non si può fare. Come? Non è il compleanno di Alonso, quindi non si può dare. Non è il compleanno di Alonso, non si può fare. No. Sono sicuramente due fuoriclasse. Alonso in modo diverso, perché Vettel ha una determinazione, ha una velocità sul giro secco in qualifica che Alonso forse non riesce a eguagliare, però Alonso ha una determinazione in gara nel farsi largo, nell'avere una visione di gara perfetta dentro il casco, e una cattiveria nel voler arrivare all'obiettivo anche partendo indietro che Vettel forse non riesce a eguagliare, anche se gli è vicino. La differenza è che Vettel c'ha una super macchina e certo, Alonso no. E quindi dobbiamo aspettare che queste macchine vengano smontate, e dobbiamo aspettare la rivoluzione dell'anno prossimo, poi capiremo se l'ottimismo della Ferrari può essere giustificato o no. Grazie direttore. Prego, grazie a voi. Grazie Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Ci fermiamo qui, Giorgio Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Torniamo con tutti i convocati domani pomeriggio dopo il GR delle 14.